dei 3000 siepi, vediamo che l'andatura è subito molto molto veloce e vediamo che va a prendere la testa, la testa, la testa, la testa, la testa. Vediamo cadere, vediamo cadere, vediamo cadere. Ma si è rimesso in gara? No, no, è ancora là. È ancora a terra. Ma si è rimesso in gara? No, no, è ancora là. È ancora a terra. Vediamo la disperazione, disperazione, disperazione, disperazione. Più agili nel superamento delle siepi, delle barriere, i due inseguitori. Inseguitori, inseguitori. Questa vittoria sorprendente. Ed ora vediamo la gioia incontenibile. Incontenibile. Puntata di 3000 siepi come ogni domenica, trasmettiamo sempre dai nostri studi nella tundra siberiana. Quest'oggi abbiamo un elemento esotico perché la Gina è andata in gita ieri a Vallombrosa e ha portato della neve originale di Vallombrosa, e quindi oggi la bacinella in cui immergiamo i nostri piedi per stare sempre al fresco contiene neve di Valle Ombrosa. Com'è andata la gita? Molto bene, molto bene. Una gita verso la Secchieta. Io non sono andato perché ero occupato nel bunker della Siberia, stavo sfondando no, a picconate. No, veramente, stavo sfondando a picconate un muro per fare una finestra perché il gelo siberiano potesse entrare negli studi di Radio Wombat qui in Siberia e rinvigorire il nostro fisico. No, in realtà non ho potuto portare la neve perché il nostro amico non la ama. Non è vera questa cosa. Non è neanche venuto in gita perché non ama la neve. Allora, confessa. Cioè, per così sembra che mentiamo, che non è vero che siamo in Siberia, che c'è la neve, che abbiamo sfondato a picconate. C'è del ghiaccio, forse è più verosimile in Siberia. Vabbè. Comunque iniziamo questa puntata che almeno nella mia parte oggi sarà nettamente divisa in due. La prima sarà una puntata, sarà un excursus in un periodo bellissimo della nostra storia che tutti ricordiamo con molto piacere. Sarà infatti una puntata turbo futurista nella quale indagheremo il rapporto tra le donne, lo sport e il fascismo nel ventennio, nello specifico del ventennio. Infatti nel libro che mi dà ispirazione per un sacco di puntate c'era un capitoletto sulla donna nello sport e ce n'era un pezzettino poco, veramente due paginette, però estremamente illuminanti su diciamo il rapporto tra la figura della donna, lo sport e come questo viene declinato nel ventennio. Ecco, prima di iniziare volevo farvi ascoltare però un pezzetto per collocarci in questa fantastica epoca storica, e in particolare volevo farvi ascoltare questo documento che era inedito fino a qualche anno fa, poi è stato fatto uscire, che racconta appunto con dei documentari inediti dell'Istituto Luce la conquista fascista di Marte. Il corpo del fascista interplanetario deve essere acciaio vibrante, teso come l'arco d'Itaco, Deneo, Dell'Eado, come si chiama. Sul suo torace i dardi del destino rimbalzano innocui e inoffensivi. Barbagli lo sa, ed ecco porre in riga i suoi per l'esercizio del cavallino littorio. In primis, dare l'esempio. A noi, un accenno che vale un'Olimpiade. Ora è dagli altri che s'attende. Il ginnasta al salto saluta il duce e imbarbagli il suo gerarca. Poi salta e saluta ancora. Poi saluta, imbarbagli il gerarca che funge da duce, poi l'attrezzo che funge da cavallo. Salto, saluto, salto, pini, fecchia e frieri. La prodezza di Santo Dio. Saluto in voi l'Italia, salto in voi il cavallo. rieccoci tornati da questo documento inedito dell'Istituto Luce, che vi collocava appunto nell'atmosfera di atletico vigore gagliardo del ventennio. Ecco come si trattava la figura della donna. Ora, l'idea che mi sono fatto io è che il fascismo si sia dovuto necessariamente relazionare con un movimento che era già in atto per altre ragioni storiche, sociali, eccetera, di emancipazione della donna, e in qualche modo abbia tentato di far buon viso a cattivo gioco e quindi ricondurre in un'immagine che era più consona una cosa che doveva per forza subire, quindi qualcosa bisognava fargli fare a ste ragazze. E l'idea che il fascismo ha della donna è comunque che la donna è moglie e madre esemplare, e quello deve essere. Ora, il punto è, da un punto di vista strettamente eugenetico, di miglioramento della razza, no? Cioè, per produrre una razza italica sana, è meglio che noi la donna gli facciamo fare sport oppure no? E su questo si interrogano, ma si interrogano davvero, cioè hanno fatto veramente i convegni per capire se lo sport faceva male alla funzione da fattrice che loro diciamo assegnavano alla figura femminile. La risposta tormentata, ma alla fine hanno deciso che no, non fa male, è una sana e razionale attività fisica, anzi favorisce uno sviluppo equilibrato del corpo femminile, che poi quindi produrrà forse una razza italica di pregio, come tutti quanti noi la desideriamo. E in particolare questa cosa è affrontata addirittura dal Gran Consiglio del Fascismo, che nel 1930 decide di incaricare niente poco di meno che la Federazione Medici degli Sportivi di fare degli studi approfonditi. Tanto che nel 1932 il CONI, che ricordiamo si strutturava in quegli anni e poi c'è anche ancora adesso, sempre con la stessa simpatia, il CONI decide di assegnare a uno dei loro migliori medici, all'interno di un convegno, proprio il compito di sancire definitivamente, cioè di fugare ogni dubbio e di in qualche modo disciplinare la figura della donna all'interno dello sport. Questo medico era Giuseppe Poggi Longostrevi, che scrive questo interessantissimo saggio, che io purtroppo non ho potuto leggere tutto, ma di cui vi leggerò una frasetta. Si intitola Cultura fisica della donna ed estetica femminile, e il buon Giuseppe questo ci va a dire: l'attività sportiva entro limiti razionali non solo non è dannosa alle funzioni muliebri, ma può essere considerata come un ottimo mezzo per favorire lo sviluppo armonico di tutti gli organi e come correttivo delle abitudini irrazionali della vita sedentaria. Ed è ottimo come correttivo dell'eccesso di stimoli che la vita moderna delle grandi città offre alla precoce ed eccessiva attività sessuale. Quindi sostanzialmente lo sport fa bene, perché la donna, altrimenti lasciata a se stessa, cosa fa? Diventa adultera e lasciva, perché così è storicamente, no? Cioè Adamo dà la costola, Eva ruba la mela, si sa poi come va a finire, cavolo. E il fascismo in particolare, diciamo, realizza nella sua più alta realizzazione possibile, scusate il doppio utilizzo della parola realizzazione, non accadrà mai più, diciamo, realizza il suo modello in una prestigiosa accademia, che è stata anche una delle prime scuole di educazione fisica, l'Accademia Fascista Femminile di Educazione Fisica di Orvieto, che è spesso veramente citata all'interno, diciamo, dei documentari dell'Istituto Luce, che potete ancora trovare in giro. In questa accademia sostanzialmente viene aperto un corso femminile che è abbastanza simile a quello maschile, se non che vengono saltate alcune discipline, alcune materie. In particolare non si insegna alle donne la filosofia e la psicologia, perché tanto non è che ci chiappano, cioè inutile gliele spieghi, perché non... E quindi comunque l'istituto, diciamo, di Orvieto è la punta di diamante dell'idea di sport di massa fascista, e per questo io ho selezionato da un interessantissimo documentario qualche minutino in cui si spiega proprio, si parla proprio di questo istituto, e ora ve lo faccio allegramente sentire. Sono solo 50 secondi, non è che vi annoio più di tanto. L'Accademia di Orvieto, fondata nel 1932, formava le insegnanti di ginnastica e promuoveva nell'opinione pubblica l'idea che l'educazione fisica femminile fosse un significativo mezzo di miglioramento della razza. Lo sport razionale, così si precisava, era considerato il miglior complemento alla maternità, in opposizione a chi temeva invece che l'atletismo femminile fosse una minaccia per il modello tradizionale di donna. Tutti però concordavano che fosse da evitare in ogni modo la mascolinizzazione delle ragazze, che sembrava aver preso piede in America. Eccomi, ho fatto un sacco di disastri su questo pezzo, sono riuscito a far cascare le cuffie sul mouse, ho stoppato il pezzo, poi ho preso Doraemon, che è il mio segnalibro preferito, e l'ho di nuovo staccato di nuovo tutte le cuffie. Sono, insomma, meglio se anche se c'è tanta gente attorno a me, comunque faccio i pasticci lo stesso, cioè non c'è differenza sostanziale da quando sono da solo, ecco. E terminato questo excursus su la figura delle donne nello sport all'epoca del fascismo, spero sia stato per voi illuminante, e ora parliamo di tutt'altro invece. Parliamo sempre di atlete, però ci spostiamo nel 1990, parliamo di atlete cubane, in particolare la prima è un 800 metrista, Ana Fidelia Quiró, che è anche conosciuta come la tormenta de Caribe, perché era diciamo un atleta che ha avuto una carriera molto lunga e travagliata. Lei, figlia di rivoluzionari cubani, inizia come la maggior parte dei ragazzetti cubani che fanno sport nelle scuole, poi nei centri sportivi, inizia a gareggiare in qualche torneo internazionale e vince. E a un certo punto deve interrompere momentaneamente la sua carriera per una gravidanza, infatti avrà un figlio da un atleta della nazionale cubana di lotta libera. Durante questa gravidanza però gli accade un incidente, cioè una bottiglia di alcol gli esplode tra le mani in casa e si infiamma, diciamo, prendono fuoco i vestiti, quindi lei riporta diverse ustioni, perde la bambina e i medici le dicono che difficilmente potrà tornare a correre. In realtà lei durante la sua degenza, che è molto lunga, inizia a frequentare uno stadio che era vicino all'ospedale, una pista d'atletica, e pian pianino riprende a correre. Si trasferisce poi in un istituto più specializzato dove continua ad allenarsi e alla fine dell'anno, questo incidente gli capita mi sembra nel 1993, all'inizio dell'anno, alla fine dell'anno lei, diciamo, contro tutte i pronostici e le previsioni, riprende a gareggiare. Riprende a gareggiare, vince, ma non solo. Dopo 2 anni, nel 95, vince i mondiali di atletica, i campionati del mondo di atletica a Göteborg. E da lì in poi parteciperà anche alle Olimpiadi di Atlanta, in cui vincerà una medaglia d'argento, mi sembra. E poi la sua carriera continua. Nel 97 vince l'oro nella finale degli 800 metri al campionato del mondo di Atene e poi da lì a poco in realtà si ritira. Tra l'altro lei è stata l'anno scorso in Italia, a Milano, a parlare della sua esperienza di atleta. Oggi è una tecnica della nazionale cubana e quindi niente, visto che prima abbiamo parlato delle donne nel fascismo, ora volevo raccontarmi invece di qualche atleta che viene da esperienze molto diverse. E un'altra atleta che a me ha colpito più che altro perché non abbiamo mai parlato di questo tipo di sport, né di sport marittimi all'interno della nostra trasmissione, sempre cubana, è Deborah Andollo, che è una apneista, penso che lei fa apnea. Si cimenta un po' in tutte le discipline dell'immersione. Lei mi aveva interessato in particolare perché è stata per un po' la detentrice di un primato assoluto, nel senso che nell'apnea, a differenza di altri sport, accade a volte, o comunque diciamo è abbastanza naturale, che le discipline maschili e femminili si fondano in un unico, diciamo in un unico, e quindi lei è stata detentrice nella discesa a corpo libero di un record, cioè nel senso che lei ha battuto il record di un francese che era Pierre Frolla, che era sceso fino a 73 metri a corpo libero, quindi senza l'ausilio della corda e dei pesi che si utilizzano nell'apnea, quella che adesso viene chiamata no limits, cioè l'apnea profonda, e lei riesce a scendere fino a 74 metri, quindi lo batte di un metro solo, che però basta per avere il primato assoluto nella disciplina. Il primato precedente, cioè prima di quello del francese, era stato stabilito da un'altra donna che era scesa a 70 metri, che era Tanya Streeter, e in realtà è un personaggio, Tanya Streeter, che ha continuato ancora a immergersi e ha segnato uno dei record dell'apnea profonda, quindi quella che ha l'ausilio della corda, dei pesi per scendere, del sondino per scendere e poi per risalire del pallone a 160 metri. Questa è una storia, diciamo, interessante perché si incastra con un'altra cosa che vi volevo raccontare prima di chiudere il mio pezzetto, che è sempre la storia di un atleta e di un atleta cubano. Infatti i 160 metri saranno anche il limite che tenterà di battere Audrey Mestre, che era un atleta messicana sposata con Pipín Ferreras, che era un altro nome molto noto dell'apnea. Loro due erano conosciuti come... la coppia dei record, perché nella Plano Limits sostanzialmente erano riusciti a fare scendere il record da 120 metri fino a 170 e passa. E sempre loro, cioè se li facevano tutti da soli quasi i record. E lei, provando a infrangere il muro dei 160 e fare 171, in realtà morirà, nel senso che scenderà ma non riuscirà a risalire, perché il pallone che la doveva riportare su, quando lei arriva giù si accorge che in realtà era vuoto, non c'era l'aria per riportarla su, e quindi verrà recuperata dopo 9 minuti, peraltro verrà recuperata dal marito, e quindi non, insomma, la sua vicenda si concluderà in questa maniera un po' drammatica. Il marito, l'anno dopo, per celebrare, diciamo, la tragica fine, in realtà scenderà a 171 metri dedicando a lei il nuovo record. Su questa vicenda, che in realtà è una vicenda abbastanza famosa, quest'anno pare esca pure un film, perché Ferreras aveva scritto un libro, The Dive, che è diventato abbastanza famoso, qualcuno si è comprato i diritti, qualcuno di Hollywood, e quest'anno pare farà uscire il film. Ora, per concludere diciamo, l'excursus sugli atleti caraibici, e per riscaldarci un poco dal freddo inverno, vi faccio sentire un pezzo di Rose Calypso, che si intitola No Madame. Ne avevo selezionato un altro, però mi hanno detto che l'avevamo già passato 3 settimane fa e io non me lo ricordavo, quindi all'ultimo si è cambiato. Torniamo dai Caraibi, dalle immersioni, dal mare, dall'apnea, da tutto quello che non si fa in questa stagione, in questa parte del mondo. Ho fatto di nuovo ripartire, vabbè, ma non fate caso ormai ai miei errori. Non... Comunque, ora io ho concluso e vi lascio alla calda voce della Gine, che quest'oggi si produrrà in una artisticamente molto valida lettura. Calda voce non è esattamente come definirei la mia voce, Comunque, avevo promesso di parlare di Osvaldo Soriano, che avevamo visto come un grande sostenitore e tifoso della squadra del San Lorenzo, squadra in cui avrebbe voluto un giorno giocare, poiché inizia una carriera di calciatore, era un centrocampista anche piuttosto promettente, chiamato El Gordo, quindi il grassone, e se guardate un po' le immagini che lo ritraggono effettivamente era abbastanza abbondante. E a seguito di un incidente per cui vede la propria carriera calcistica stroncata, diviene un cronista sportivo e uno scrittore molto, molto famoso in tutto il Sud America, ma anche in Italia, poiché lo ricordiamo ha collaborato con il Manifesto. E oggi io vi propongo la lettura di un racconto tratto da un libro che raccoglie 25 dei racconti sul calcio, scritti appunto da Soriano, e tra cui anche il figlio di Butch Cassidy, se vi ricordate l'altra volta avevamo accennato, era il racconto che ispirava un film, Il Mondiale Dimenticato. La mia lettura, salvo impappinamenti, comunque verrà intervallata da dei pezzi di Bruce Springsteen, e prima di iniziare ve ne mandiamo subito uno. Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of time travel. Prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Bathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in my campfire line. Waiting on the ghost of time travel. Nobody is kidding nobody about where it goes. sitting down here in the campfire light, with a ghost of old times, yeah. Bruce Springsteen con The Ghost of Tom Joad, contenuto nell'album dal titolo omonimo, ve lo consiglio caldamente, sono tutte tracce ispirate al romanzo di Steinbeck Furore. Noi invece possiamo tornare a Osvaldo Soriano e al racconto che vi avevo promesso, questo è Gagliardo Perez, arbitro. C'è una breve introduzione esplicativa scritta dallo stesso Soriano che vi leggerò e poi inizia il racconto vero e proprio. Allora, per i mondiali del 1986 il Manifesto di Roma mi ha chiesto di scrivere un articolo al giorno per tutto il mese del campionato. Maurizio Matteuzzi mi spiegò che non si trattava di andare in Messico e neppure di commentare le partite guardandole alla televisione. Da Buenos Aires avrei dovuto inventarmi tutti i giorni un racconto che avesse a che fare con il calcio, da pubblicare accanto alle congetture degli specialisti italiani. All'inizio Giorgio Manacorda, uno dei giornalisti, scrisse che il candidato più probabile a vincere la Coppa era la selezione argentina. Io l'ho preso in giro già nel primo telex che ho spedito da Buenos Aires, ma un mese dopo, quando Jorge Burruchaga coronò la vittoria contro la Germania, ho dovuto chiedere scusa ai lettori italiani per la mia mancanza di fiducia in Bilardo e nei suoi uomini. Voi argentini siete dei miscredenti, mi rimproverò Matteuzzi al telefono, e quella volta gli ho dovuto dare ragione. Il protagonista di questo racconto è esistito, ma forse non si chiamava Gagliardo Perez. Io ho segnato il gol dello scandalo, ma non credo che sia stato esattamente così. Comunque, mi ha divertito ricostruire quei giorni in cui ero ragazzo e sognavo di poter giocare, prima o poi, nel San Lorenzo di Almagro. Quando io giocavo a pallone, più di 30 anni fa, in Patagonia, l'arbitro era il vero protagonista della partita. Se la squadra locale vinceva, gli regalavano una damigiana di vino di Rio Negro. Se perdeva, lo incarceravano. È chiaro che la cosa più frequente era il regalo della damigiana, perché l'arbitro e i giocatori ospiti non avevano la vocazione al suicidio. C'era, a quei tempi, una squadra che in casa era imbattibile, Barda del Medio. Il paese non aveva più di 300 o 400 abitanti. Se ne stava inchiodata in mezzo alle dune, con una strada centrale lunga 100 metri, e più in là, casupole di mattoni come nel Far West. Sulla riva del fiume di Mai c'era il campo, circondato da una recinzione di fil di ferro intrecciata con una tribuna di legno con una cinquantina di posti. Erano i distinti, quelli dei commercianti, dei dipendenti statali e dei preti. Gli altri vedevano la partita arrampicati sul tetto della Fordà o sui fienali dei camion dell'impresa che stava costruendo la diga. Noi eravamo tutti quanti influenzati dal meraviglioso stile del Brasile campione del mondo, ma nessuno l'aveva visto giocare. La televisione non era ancora arrivata in quelle province e tutti noi lo conoscevamo attraverso la radio, attraverso quelle voci lontane e vibranti che raccontavano le partite. E anche attraverso i giornali, che arrivavano con 4 giorni di ritardo, ma riportavano la fotografia di Pelé, il disegno di come si faceva un 4-2-4 e la notizia della catastrofe argentina e Svezia. Io giocavo nel Confluencia, una squadra di Cipolletti, paese fondato all'inizio del secolo da un ingegnere italiano che aveva un monumento nella via principale. Le strade non erano state ancora asfaltate e per andare alla partita, nelle domeniche di pioggia, bisognava trovare dei camion con le ruote da fuoristrada. Il Confluencia non si era mai piazzato fin là del sesto posto, ma a volte battevamo la squadra campione. Molto di rado, ma le facevamo prendere un bello spavento. Quel giorno dovevamo giocare sul campo del Barda del Medio, dove mai nessuno aveva vinto. Le squadre grandi scalavano già dalle loro previsioni i due punti della partita che dovevano giocare in quel posto d'inferno. I ragazzi del Barda del Medio, parenti di indios e di cileni clandestini, erano cattivi come noi pensavamo che dovessero essere gli olandesi o gli svedesi. Certo, picchiavano come se fossero in guerra. Per loro, che quando andavano in trasferta finivano sempre travolti da una goleada, era impensabile perdere in casa. L'anno prima li avevamo sconfitti sul nostro campo per 4-0 e avevamo perduto a casa loro per 2-0, con un rigore e un gol penoso contro Gomez, la nostra ala destra. Il fatto è che nessuno osava giocare con loro da pari a pari, perché circolavano leggende orribili sulla sorte dei pochi che avevano osato segnare un gol nella loro fortezza. Allora, tutte le squadre che andavano a giocare a Barda del Medio ne approfittavano per dare una giornata di libertà ai giocatori migliori e per provare qualche ragazzo che prometteva bene nei gironi minori. Insomma, la partita era perduta in partenza. L'arbitro arrivava per tempo, pranzava gratis e poi espelleva il più bravo della squadra ospite e fischiava un rigore senza che fosse passata la prima ora e che la tribuna cominciasse a innervosirsi. Dopo andava a ritirare la damigiana di vino e magari, se la partita era finita con la goleada, si fermava per il ballo. Siamo partiti presto ed eravamo una squadra che avevamo faticato parecchio a mettere insieme, perché nessuno voleva rischiare le gambe per niente. Io ero molto giovane e avevo debuttato da poco in prima categoria e volevo conquistarmi il posto di centravanti grazie al mio fiuto per il gol. Gli altri erano ragazzi rassegnati, che andavano fin laggiù per rimanere poi al ballo e cercare un'avventura con le ragazze delle fattorie l'intorno. Dopo il massaggio all'olio verde, quando eravamo già vestiti con le nostre maglie stinte che erano state celesti, L'arbitro, Gagliardo Perez, uomo severo e dalla pessima vista, è venuto nello spogliatoio a controllare che tutto fosse in ordine e a dirci di non tentare di fare furbi con la squadra ospite. Gli mancavano due denti e parlava a scatti, confondendo quello che diceva con quello che avrebbe voluto dire. Gli abbiamo detto, ed eravamo sinceri, che tutto andava bene e che cercasse, magari, di non farci spaccare le gambe. Gagliardo Perez promise che l'avrebbe detto al loro capitano, Sergio Giovanelli, un terzino veterano che aveva un cattivo carattere e mollava calci come un asino. Mentre stavamo salutando il pubblico che ci fischiava, il difensore Giovanelli mi si è avvicinato e mi ha detto, «Senti, ragazzo, non fare il fesso perché io ti appendo un albero». Ho guardato al di là delle porte e c'erano, spogliati dal vento, i sinistri salici a cui già alcune volte avevano lasciato appeso qualche arbitro idealista. Gli ho detto di non preoccuparsi e l'ho chiamato signore. Giovanelli, che aveva una palpebra solcata da una cicatrice, ha fatto un cenno di approvazione e se n'è andato a dare lo stesso avviso agli altri attaccanti. La prima mezz'ora di gioco è stata più o meno tranquilla. Avevano cominciato a dominarci, ma tiravano da lontano e il nostro portiere, Cacio Osorio, non poteva lasciar passare il pallone perché sarebbe stato troppo scandaloso e ci avrebbero linciato ugualmente perché troppo paurosi. Poi hanno preso un palo e Flaco Ramallo gli ha messo diverse palle in angolo e in modo che potessero venire avanti e segnare di testa. Ma quel giorno, purtroppo, erano senza punte e senza fortuna. Tutti noi abbiamo tentato il possibile per infilare la palla nella nostra porta, ma non c'è stato niente da fare. Se Cacio Osorio la lasciava rimbalzare in area, loro tiravano fuori. Se i nostri difensori cadevano, loro la mandavano contro le nuvole o tra le mani del portiere. Alla fine, stufo di aspettare, sempre più nervoso, Gagliardo Perez ha espulso due dei nostri e ha fischiato due rigori. Il primo è passato sopra la traversa, il secondo ha preso il palo. Quel giorno, come disse ad alta voce lo stesso arbitro, non avrebbero infilato un gol nemmeno nell'arcobaleno. Il problema sembrava insolubile e la tribuna era sempre più animata. Ci insultavano e dicevano addirittura che giocavamo sporco. A metà del secondo tempo hanno cominciato a tirarci sassi. La situazione è precipitata a 5 o 6 minuti dalla fine. Flaco Ramallo, stanco di essere trattato da Checca, ha respinto molto alto e io mi sono ritrovato alle spalle di Giovanelli, che indietreggiava trascinando i talloni. Abbiamo saltato insieme e lui, cercando di rifilarmi una gomitata, ha lisciato la palla ed è caduto. La tribuna è rimasta in silenzio, un vuoto che mi entrava nelle ossa mentre mi portavo la palla verso la loro porta, solo come un frate spagnolo. Il portiere del Barda del Medio non ci capiva più niente. Non solo non riuscivano a mettere un gol, ma oltretutto gli stava andando addosso uno che si allargava verso sinistra, come per aprire l'angolo di tiro. Allora è uscito per chiudermi alla disperata, cosciente del fatto che se non mi avesse fermato per lui non ci sarebbe stata una notte di balli e magari mi avrebbe dovuto fare compagnia sull'albero di Sinistra Fama. Lui ha fatto quello che poteva, io quello che non dovevo. Era alto, con un nasone e i capelli ispidi, e aveva una maglia gialla che la madre gli aveva lavato la sera prima. Ha cercato di fare una finta di corpo, ha spalancato le braccia e si è gonfiato come un riccio per coprirmi meglio la porta. Allora ho visto, con l'inconscienza dell'adolescente, che aveva le gambe storte come banane, e mi sono scordato Giovanelli e Gagliardo Perez, e ho scorto la gloria. Ho finto una schivata e ho toccato la palla di sinistro, un tiro corto e delicato, con il collo del piede, per farla passare in mezzo a quella parentesi che gli si apriva sotto le ginocchia. Il nasone ha abboccato alla finta e si è buttato in modo vistoso, sicuro di aver salvato l'onore e il ballo di Barda del Medio, ma la palla gli è passata in mezzo alle caviglie come una goccia d'acqua che scivola tra le dita. Prima di andarla a riprendere, alle sue spalle ho visto la paura sulla sua faccia. Ho sentito che cosa deve essere il silenzio gelido dei patiboli. Poi, come uno che ha deciso di sfidare il mondo, l'ho colpita forte, di punta, e mi sono messa a esultare. Ho corso per più di 50 metri con le braccia in alto e nessuno dei miei compagni è venuto a congratularsi. Nessuno mi si è avvicinato mentre mi lasciavo cadere in ginocchio, come faceva Pelé nelle fotografie che pubblicava il grafico. Non ho visto se l'arbitro Gagliardo Perez avesse fatto in tempo a convalidare il gol, perché era così tanta la gente che aveva invaso il campo e aveva cominciato a picchiarci che tutto all'improvviso divenne molto confuso Mi hanno colpito in testa con la valigia del massaggiatore, che era di legno, e quando si è aperta tutti i flaconi si sono sparpagliati a terra e la gente li raccoglieva per pestarceli sulla testa. Nobody wins, unless everybody wins. Come! What time? Sei poliziotti del distaccamento di Barda del Medio sono arrivati una mezz'ora dopo, quando ormai avevamo le ossa rotte e Gagliardo Perez se ne stava in mutande avvolto nella rete che avevano strappato da una delle porte. Ci hanno portati al posto di polizia, noi e l'arbitro Gagliardo Perez. Il commissario, un bruno che sembrava un indio, con i capelli imbrillantinati e la faccia scura, ci ha fatto un discorso sull'ordine politico e sullo spirito sportivo. Ci ha trattati da fessi irresponsabili e ha ordinato che ci portassero a tagliare le erbacce del campo vicino. Mentre scendeva la sera, abbiamo dovuto strappare l'erba con le mani, quasi nudi, mentre gli indignati abitanti di Barda del Medio ci spiavano da sopra la recinzione e ci tiravano altri sassi e perfino qualche bottiglia vuota. Non ricordo se ci hanno dato qualcosa da mangiare, ma ci hanno messi tutti ammucchiati in due celle e abbiamo dovuto prenderci cura dell'arbitro Gagliardo Perez, che sembrava un pollo disossato per via dei suoi ematomi, dei suoi crampi e per un attacco d'asma. Delirava e nel suo delirio insensato confondeva quel campo con un altro campo, quella partita con un'altra partita, quel gol con quello che gli era costato i due denti davanti. Al mattino dopo, mentre ci trasferivano con un autobus concassato e senza vetri sotto una pioggia di sassi, il nostro portiere, Cacio Osorio, mi si è avvicinato per dirmi che a lui un gol così non gliel'avevano mai fatto. Ha abboccato alla finta, quel fesso, mi ha detto, ed è rimasto un momento piegato, muovendo le braccia, per mostrarmi come si faceva a evitare quel gol. Quando si è svegliato, a metà del viaggio, Gagliardo Perez mi ha riconosciuto e mi ha domandato come mi chiamassi. Era ancora in mutande, ma aveva il fischietto che gli pendeva dal collo come una medaglia. «Non si faccia mai più vedere da me», mi ha detto, e la saliva gli colava agli angoli della bocca. «Se la incontro di nuovo su un campo da gioco, io la rovino, glielo garantisco». «Ha convalidato il gol?» gli ho domandato. «Certo che l'ho convalidato», ha risposto, indignato, e sembrava che stesse per soffocare. «Per chi mi prende? Lei è un coglione vanitoso, ma quello era un gol come si deve, e io sono uno come si deve». «Grazie», gli ho detto, e gli ho dato la mano. Non ha prestato attenzione al mio gesto e ha indicato i denti che gli mancavano. «Vede qui?» mi ha detto. «Questo è stato un gol di Sivori in fuorigioco. Adesso pensi un po' dove sta lui e dove sto io». «A Dio non piace il calcio, ragazzo. Perciò questo paese va così, come la merda». Bad. ringraziamo il signor Springsteen che ci ha sostenuto per tutta la puntata, se no la nostra puntata durava 5 minuti probabilmente, e invece grazie ai suoi bellissimi pezzi che evocano dei ricordi di infanzia teneri e romantici alla Gine, siamo andati avanti per quasi un'ora e quindi siamo rientrati nella decenza. Ecco, ora però abbiamo effettivamente concluso, che si va. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, vi ricordiamo i nostri contatti, ricordali te? Oh no! Allora li ricordo io. Allora, wombat.noblogs.org per ascoltarci, sui social noi facciamo obiezione di coscienza, almeno io non li dico, e se volete scriverci c'è posta wombat@insiberia.net e noi tosto vi risponderemo. Non è vero, io ho mai guardato la posta. No, c'è qualcuno che la guarda, non è vero che non la guarda nessuno, sono solo io che faccio schifo. Stiamo per creare un indirizzo mail nostro. Ah già, avremo sì. Un giorno anche proprio per scrivere proprio sì, a noi due, se siete fan. Noi poi indietro vi mandiamo le nostre foto e queste, gli autografi, no? Facciamo che mandiamo Bruce e salutiamo, l'ultimo pezzo di Bruce. Oh, un bellissimo pezzo. Meno male che c'è lui che smorza un po'. Che cosa smorza? Cioè, siamo bravissimi. Ora, cioè, Bruce è soltanto la ciliegina sulla torta, ma anche se la nostra puntata durava 10 minuti di solo parlato, erano 10 minuti bellissimi, che c'entra? E quindi ora Dancing in the Dark, ballate nel buio, ballate dove vi pare, insomma, ballate, fate un po' che vi in Siberia. Sì, in Siberia, noi in al Siberia, freddo. Noi adesso usciamo a prendere una boccata d'aria gelida. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Here's some wine and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry.